Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Eccoci dunque in agosto, buone vacanze a tutti coloro che sono già in vacanza. In queste settimane parleremo di riti che ci avvicinano alle abitudini agostane e vacanziere. Parleremo di mare, di amore, di viaggi, di cibo. Cominciamo proprio da quest'ultimo tema, il cibo, la gastronomia, la cucina, il gusto della buona tavola. Cominciamo con il libro di uno studioso inglese che conosce bene la società italiana, John Dickey. Il libro si intitola Con gusto, storia degli italiani a tavola, è pubblicato dalla Terza, 438 pagine, 11 euro, ed è tradotto da Fabio Galimberti. L'autore, come vi dicevo, uno storico inglese che abbiamo anche conosciuto quando ci ha parlato di un libro sul terremoto di Messina, e questa volta offre una dotta ma godibilissima lettura del nostro gusto culinario, partendo da un dato di fatto inoppugnabile, credo in particolare per un inglese, con tutto il rispetto per questo grande popolo: non solo che in Italia si mangia bene, ma, come dice lo storico, che l'Italia è diventata il modello da imitare per la realizzazione degli ingredienti, il modo di cucinarli e il modo di consumarli in compagnia. Quindi la buona tavola anche come occasione di socialità e di socializzazione. Nonostante le recenti riscoperte della vita campagnola, aggiunge Dickey, la cucina italiana è tutt'altro che rustica, anzi, scrive, la cucina italiana è una cucina cittadina, visto che l'Italia ha la più ricca tradizione di vita urbana del pianeta e le invidiabili abitudini culinarie del bel paese sono un elemento di questa tradizione. Naturalmente non c'è solo questo, perché la storia del cibo in Italia è anche storia di penuria e di miseria. Aggiunge lo storico, malnutrizione, fame e carestia sono elementi fondamentali della storia del cibo in Italia. Questo libro, spiega, si muove tra la cucina dei dominatori e la cucina dei dominati, tra l'alimentazione quotidiana e i pasti delle élite. E allora lo storico sviluppa questo libro con una sorta di itinerario, di percorso nel nostro paese, ma soprattutto in alcune grandi città, sottolineandone quelli che sono stati gli apporti alla formazione del gusto culinario nazionale. Per esempio si parte da Palermo, 1154, la pasta asciutta e il planisterio, poi c'è Milano, 1288, Venezia, 300, Roma, 1468, Ferrara, poi di nuovo Roma nel pieno del trionfo della corte pontificia, e poi Bologna, Napoli, Torino, fino a oggi e fino agli sviluppi del gusto culinario, agli sviluppi della cultura culinaria e della cultura della gastronomia, per esempio con l'esperienza di Slow Food. E questo percorso naturalmente è accompagnato con una indicazione di quelle che sono state le conquiste della cucina italiana, conquiste che sono note ormai in tutto il mondo. Per esempio la pizza, che è diventato il cibo per antonomasia del nostro paese, e in particolare la pizza di cui quest'anno festeggiamo un anniversario rotondo, la pizza margherita, che fu inventata nel 1889, che appunto è diventato un simbolo della cucina italiana, ma che in realtà all'inizio fu molto mal considerata. Una testimonianza di questa diffidenza che riferisce Dickey sono le parole di Carlo Collodi, che vi propongo. Uno che palesemente odiava la pizza era Carlo Collodi, il fiorentino figlio di un cuoco che terminò di scrivere Le avventure di Pinocchio 6 anni prima della visita della regina a Napoli. Il libro successivo, Giannettino, uscì nel 1886 e non conobbe lo stesso travolgente successo delle avventure del celebre burattino. È il resoconto del viaggio di un ragazzo toscano attraverso l'Italia e spesso sembra quasi di leggere una guida turistica sotto forma di lettere a casa di un dodicenne. Quando il protagonista del libro raggiunge Napoli, trova una città di sole, canti e allegria. I Lazzari ormai sono soltanto un ricordo e i famosi maccheroni con la salsa di pomodoro, ci garantisce il narratore, vengono mangiati con la forchetta e non più con le mani. L'umor lieto di Giannettino cambia però quando arriva il momento di descrivere la pizza. Vuoi sapere che cos'è la pizza? È una stacciata di pasta di pane lievitata e abbrustolita in forno, con sopra una salsa di ogni cosa un po'. Quel nero del pane abbrustolito, quel biancheggio dell'aglio e dell'alice, quel giallo verdacchio dell'olio e delle erbucce soffritte e quei pezzetti rossi qua e là di pomidoro danno alla pizza un'aria di sudiciume complicato che sta benissimo in armonia con quello del venditore. Ma la cucina può essere oggetto di studio anche dell'antropologo, in questo caso Marino Niola, che insegna proprio antropologia dell'alimentazione a Napoli e ha pubblicato col Mulino, si fa presto dire copto, un antropologo in cucina, 154 pagine, 12 euro. Di nuovo un libro colto, istruttivo e divertente però, nel quale lo studioso dei comportamenti legge le abitudini alimentari come una cerniera, la chiama così, esattamente come il linguaggio tra natura e cultura. Era stato il grande antropologo, il fondatore dell'antropologia, Claude Lévi-Strauss, a spiegare questo fenomeno, sostenendo, come scrive appunto Niola, che la cucina da una parte risponde alle esigenze del corpo e dall'altra dipende dalla maniera particolare con cui nelle varie parti del mondo l'uomo si inserisce nell'universo. Insomma, il cosa si mangia e il come si mangia sono anch'essi espressione di una cultura e di una civiltà. E questo allora aiuta a spiegare anche la grandezza di certi cibi o di certe tecniche come il tempura giapponese o le fritture meridionali. Una tecnica che è un'arte, e se è vero che, scrive l'autore, il segreto della frittura è la sorpresa. Friggere, scrive, è il cogliere il cibo alla sprovvista, fissarlo in una specie di incantamento. In un baleno il grasso bollente immobilizza la sua preda e la costringe a svelarsi, le strappa il segreto del suo sapore. E lo shock della frittura a rivestire l'alimento di una luce aurata, un'aureola nel vero senso della parola, improvviso come un'emozione rivelatrice. Sentite che opera d'arte che può essere contenuta in un piatto di buona frittura. E poi ci sono tanti altri esempi sul pesce, sulla frutta, sulla carne, la verdura, gli oli, i vini. Per farvi avere meglio un'idea dello studio di Niola, vi propongo una pagina sul rito decisamente contemporaneo e sul rito proprio tipicamente agostano, nel quale certamente tutti noi ci sottoporremo in queste settimane, nonostante le obiezioni dei puristi. La pasta. Sta fredda. La liberazione è fredda, almeno per la pasta, che d'estate si emancipa dalla pesantezza dei sughi e delle tradizioni per diventare leggera, per vivere una vita spericolata, una vita da insalata. Basta intingoli densi, cotture estenuanti, soffritti al calor bianco. Cucina sì, fucina no, è lo slogan della rivoluzione gastronomica che, favorita dal clima vacanziero, fa soffiare sulle tavole una provvidenziale ventata di anarchia. È la rivincita delle farfalle e di tutte le paste minori, considerate indegne di ragù, amatriciane e carbonare. Snobbate dagli intenditori e guardate con diffidenza dai tradizionalisti, ruote, eliche, conchiglie e mezze maniche consumano in questi giorni la loro vendetta, un piatto che, come è noto, va servito freddo. Ed è anche la rivincita delle donne, che almeno d'estate si alleggeriscono dell'oneroso onere di essere regine dei fornelli. Perché, non c'è dubbio, il freddo libera le donne che fino a pochi decenni fa erano tenute a esibire sempre e dovunque doti di perfette massaie. La pasta fredda è figlia della mutazione antropologica italiana, espressione di un benessere e di una mobilità sociale che dagli anni del miracolo economico inventano nuove consuetudini alimentari. Sorella del buffet, ma anche parente stretta del barbecue e dei piatti di carta, la farfalla, fantasiosamente mescolata con pomodori, mozzarella, verdure, gamberetti, tonno, olive, rucola, fino agli esotici curry e avocado, diventa il simbolo di una stuzzicante promiscuità, di un'informalità spensierata che esonera dalle associazioni obbligate delle ricette tradizionali e dai tempi coatti delle lunghe preparazioni. Siamo fermi di fronte per darci la mancia, decisi a vicenda a riempirci la pancia. Il sole nel cielo è tornato da poco. Sarà mezzogiorno, mezzogiorno di cuoco. I miei coetanei avranno riconosciuto questa pubblicità tratta da Carosello, che presentava un prodotto che è diventato una tappa nell'evoluzione del gusto degli italiani, la carne in scatola, che ha rappresentato un esempio tra i tanti del cambiamento appunto nel gusto e nell'approccio al cibo da parte degli italiani, ma anche la conquista da parte degli italiani di un cibo all'inizio prezioso e raro come la carne. E appunto è stato il successo del Mezzogiorno di cuoco. Questo è anche il titolo del libro che vi presento, di Giuseppe Romano, sottotitolo Montana, 50 anni di storia di pubblicità di alimentazione italiana, un libro utile per rivivere la storia di questo grande fenomeno di costume e anche culturale, il libro pubblicato da Marsilio, 124 pagine, 13 euro, un libro che è la storia non solo di una comunicazione di successo che ci è rimasta nella memoria, ma della trasformazione trasformazione appunto del gusto degli italiani e anche di un successo imprenditoriale straordinario, un successo imprenditoriale nato e cresciuto nel nostro paese. Un giallo, per così dire, culinario è quella di una esordiente americana, il Newmark. Il libro si intitola L'apprendista di Venezia, è pubblicato da Longanesi, 380 pagine, 18,60 euro ed è tradotto da Elisabetta Valdré. Qui siamo a Venezia nel 1498. Un ragazzo, un orfano, poverissimo, ruba nel mercato una melagrana e viene acciuffato dallo chef del doge, il quale, anziché di dargli o fargli dare una sonora lezione, incantato in qualche modo da questo ladruncolo, lo porta con sé nelle cucine per trasformarlo in suo aiutante. Ma il giovane Luciano scoprirà dalle cucine dei doge dei complotti particolarmente tenebrosi e, come è stato sottolineato da alcuni critici americani, questo libro, seppure non raggiunge la perfezione, per così dire, della storia e della suspense di un libro come Il Codice da Vinci, tuttavia è molto capace di rendere le atmosfere di Venezia. Pare che la passione della scrittrice sia stata appunto quella di far partecipare soprattutto i suoi connazionali, comunque chi non conosce Venezia, dell'atmosfera veneziana, delle sue grandi feste, dei suoi mercati, dei suoi quartieri e anche della sua cucina, perché si parla a lungo di come venivano cucinati i cibi e di quali erano le prelibatezze veneziane. Il confettino. Restiamo in tema con Camillo Fusillo, una storia davvero al dente, di Chiara Patarino, con le illustrazioni di Elena Prette. Il libro è pubblicato da Cartusia, 9,90 euro. Qui i protagonisti sono appunto i vari formati della pasta, che danno vita a una serie di avventure in un meraviglioso mondo di paste fresche. Non troviamo anche un breve cenno di storia sulle origini di questo alimento, qualche ricetta e suggerimenti per gustare questo tesoro della cucina italiana. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, stiamo parlando dunque di buona cucina, di gastronomia e vi ricordo naturalmente che la cucina italiana non è capace soltanto di trasmettere le sue tradizioni, ma è soprattutto capace di sorprendere e di innovare. E uno dei protagonisti della nuova scuola gastronomica è certamente Davide Oldani, uno chef milanese che oggi opera nel suo ristorante di Cornaredo. E Oldani pubblica La mia cucina pop, l'arte di caramellare i sogni, è pubblicato da Rizzoli, 222 pagine, 16 euro. Perché una cucina può essere pop? Lo spiega lo stesso chef. Pop, dice, mi sa di popolare nel senso più tradizionale del termine. In fondo sono uno del popolo a cui piace restare così, senza bussare alla porta dello star system che della parola popolare conosce un solo significato, secondo me distorto, celebre. Forte di questo approccio e di studi severi con i maggiori cuochi del mondo, Oldani è diventato un protagonista della cucina italiana con un approccio, per così dire, filosofico, nel senso che il suo sforzo è quello di partire dal classico per arrivare appunto al pop. E così spiega: la cipolla e il parmigiano sono un classico se presi separatamente, la cipolla caramellata con parmigiano caldo e freddo sono una rivisitazione pop perché entrambi affondano le radici nel classico. E nel libro troverete non solo la storia e la filosofia, ma anche una guida alla stagionalità dei prodotti, alla scelta quindi degli ingredienti giusti e anche qualche ricetta stagionale. Per esempio, per chi voglia avventurarsi in qualche piatto estivo, segnalo la zuppa di melone e rosmarino profumo bianco al caffè e la melanzana, pomodoro, menta, cioccolato amaro e pane. Ma sentiamoci spiegare da Oldani non come si fanno i suoi piatti, ma come nasce la sua cucina. Buongiorno Davide Oldani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Signor Oldani, lei insiste nel suo libro sulla importanza della tradizione. Innanzitutto dice che bisogna essere umili in cucina, ma poi attaccati, anche attenti a quella che è la tradizione. Scrive a un certo punto: se non ci scostiamo dal pensiero che il futuro sta nella tradizione o che è la tradizione a fare il futuro, sbagliamo strada. Ecco, quanto conta la tradizione in cucina oggi? Ma la tradizione conta molto per quello che riguarda l'idea della cucina. Naturalmente la tradizione deve essere cambiata, deve essere rinnovata e soprattutto deve essere rialleggerita. Vale a dire che una buona tradizione deve mantenere il gusto, però deve elevare un po' quello che erano i grassi aggiunti della cucina di una volta, perché una volta la cucina si mangiava per nutrirsi e perché si facevano dei lavori più fisici che mentali. Adesso il tempo è cambiato, quindi credo che mantenendo la tradizione bisognerebbe elevare tanti grassi dai piatti tradizionali e aggiungere magari quelle spezie o quelle verdure o quei frutti o quelle erbe che possono andare a colmare il vuoto che lasciano i grassi nel gusto, e aggiungendo un gusto un po' più leggero. E infatti lei insiste sulla necessità di aggiornare anche i piatti, le ricette che inventa lei stesso. Ma è chiaro, noi adesso abbiamo quasi 6 anni di attività e cominciamo a rivisitare un po' le nostre prime ricette, e vedo che anche nel giro di 6 anni è cambiato anche il nostro modo di cucinare, cioè si è alleggerito e si è ingentilito ulteriormente. Ecco, uno dei segreti, scrive nel suo libro, è il senso di osservazione. Lei questo senso lo ha migliorato nelle migliori cucine di tutto il mondo? No, ma credo che il senso di osservazione, sì, quello assolutamente appartiene, prima cosa appartiene alle persone, nel senso che se uno vuole crescere deve abituarsi a guardare tutto ciò che lo circonda, e deve naturalmente, oltre che a studiare, applicarsi, però deve osservare molto bene, e quello che è per la cucina naturalmente l'ho fatto prima nelle università della cucina dove ho lavorato, ulteriormente l'ho affinato in questi 6 anni guardando il mio ospite e capendo cosa lui ha bisogno per stare bene nel nostro ristorante, nella nostra casa. Quindi lei fa mangiare su misura? Ma direi non da mangiare su misura, però cerco di semplificare la tavola, di creare uno stile che va al di là del ristorante o ristoratore o cuoco, cioè creare uno stile do. Senta, nel suo libro lei a un certo punto introduce un parallelo molto suggestivo con la musica, in particolare con Ligabue, ce lo vuole spiegare? Ma io credo che... Il Liga secondo me è una grande persona, anzitutto perché ho avuto l'onore di conoscerlo e lo apprezzo per la persona che è. Poi per quello che è il suo mestiere, credo che anche lui abbia avuto la fortuna di capire dove andava il mercato e cosa doveva fare. Vale a dire che per i più giovani che magari ascoltano la musica, c'è l'adrenalina della musica che fa piacere le sue canzoni. Per quelli un po' più anziani come me, che magari vanno in maniera più approfondita, cioè ascoltano le parole, Ligabue riesce a piacere comunque. Quindi il senso dell'attaccamento a mio Ligabue è proprio quella, anzitutto il racconto delle sue canzoni che ha, che è un po' un quotidiano vissuto veramente da lui, che mi fa rimanere d'accordo su molti punti. E poi soprattutto l'idea della commercializzazione, cioè giovane uguale musica, e quello un po' più anziano, quello un po' più in là con l'età, la finezza di poter ascoltare il significato delle sue canzoni. Lei è un esponente della nuova cucina, della cucina giovane milanese, si è formato con Gualtiero Marchesi quando era qui a Milano, ma insomma a Milano si mangia bene, alcuni dicono di no. Beh, non lo so, secondo me a Milano qualcosina in cui dove si possa mangiare bene c'è, naturalmente. Più che dire se si mangia bene a Milano o meno, bisogna capire se ci sono grandi cuochi a Milano. Credo che qualcuno ci sia. Un'ultima domanda. Nel suo libro lei ci dice che legge molto. Che cosa legge? Quali sono i libri che le piacciono di più? Ma vado da una parte all'altra, cioè non ho un mono. Vale a dire, l'ultimo che ho letto è Oceano Blu, che mi è piaciuto molto. Che è di questo economista che lavora nel Parlamento europeo, che ha fatto nel quale mi sono rivisto, cioè l'Oceano Blu, dove uno si mette sul mercato con un'idea valida e si impone per l'idea e non per il prezzo, mentre invece l'Oceano Rosso, quello che lui descrive in questo libro, è il mercato dove uno si butta con un'attività nel mercato e va al ribasso dei prezzi per affermarsi anziché con l'idea. Quindi lei si sente stile Oceano Blu. Esatto, e poi l'altro, forse il penultimo, è stato quello di Fabio Volo, Un posto nel mondo, o Una porta nel cielo di Roberto Baggio. Ho un po' di punti fermi nella mia vita che seguo. Bene, grazie a Davide Oldani, autore della Mia Cucina Pop. Grazie a voi, grazie mille. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi hanno detto così. Niente paura, niente paura. paura, si vede la luna perfino da qui. E questo appunto era Ligabue, che tanto piace a Oldani, e ci introduce questo suo brano alla biografia del cantante, scritta da Massimo Poggini, che è un giornalista musicale, che ha scritto appunto Liga, la biografia, pubblicata da Rizzoli, 364 pagine, 19 euro. La conoscenza fra Poggini e Ligabue risale al 91, quando il cantante era appena agli esordi, ma aveva già venduto 100.000 copie del suo primo album. E da quell'incontro nasce una lunga amicizia, una lunga frequentazione che sbocca ora in questo libro, che ripercorre la carriera dell'artista fin dai primi interessi musicali che si manifestano quando Ligabue è ancora un ragazzino. Un ragazzino con la sua vita normale, di provincia, gli studi, il diploma da ragioniere, la prima chitarra, l'inizio delle stagioni delle radio libere che proprio a Correggio, la città di Ligabue, esplode. E poi inizia il successo, la lunga carriera che seguiamo anche nelle immagini che accompagnano il libro, fino appunto alla storia e alla cronaca di questi anni. E il libro ci permette di accostarci al personaggio Ligabue, di conoscerlo al di là della sua musica, di seguirlo nei suoi concerti, di cogliere i suoi atteggiamenti, per esempio la sua insistenza sul fatto che lui si sente di fare delle canzoni, non poesia, anche se la poesia, confessa, la frequenta molto e alla poesia si ispira per i suoi versi. In particolare Ligabue confessa in questo libro la sua passione per una poetessa polacca che ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1996, Wisława Szymborska. E proprio della Szymborska sono usciti alcuni titoli. Le opere sono pubblicate da Adelphi, 1134 pagine, 70 euro, e sono curate da Piero Marchesani. E più di recente sono uscite due raccolte più maneggevoli, pubblicate entrambi da Libri Scheiwiller. La prima raccolta, Gente sul ponte, 110 pagine, 14 euro. La seconda, Attimo, 86 pagine, 14 euro. Entrambe sono curate ancora da Piero Marchesani. E vi propongo qui una brevissima, fulminante poesia della Szymborska, anche per omaggio appunto a Ligabue, che a lei si è ispirata, che ci dà una prova dell'estro ironico e poetico di questa grande scrittrice. Quando pronuncio la parola futuro, la prima sillaba già va nel passato. Quando pronuncio la parola silenzio, lo distruggo. Quando pronuncio la parola niente, creo qualche cosa che non entra in alcun nulla. Oh, look at Michael Phelps, number three. It's in the bag, it's just whether he breaks the world record. Come on, Michael Phelps, 1:43.86. 1:43.86. Oh, 1:42.96. Michael Phelps, what a supreme athlete, the greatest swimmer ever. Siamo passati dalla poesia al nuoto. In questa che avete sentito era la cronaca della terza vittoria di Phelps alle Olimpiadi di Pechino, la vittoria nella gara dei 200 stile libero. Vi segnalo oggi il libro di Michael Phelps, scritto con Alan Abramson, No Limits, Volere e Vincere, pubblicato da Mondadori, 256 pagine, 17 euro. Phelps, appunto, vincitore di 8 medaglie d'oro a Pechino, in questo libro fa corrispondere a ogni medaglia e specialità un capitolo del libro intitolato a una virtù, una dote, una risorsa da mettere in campo per dei risultati così straordinari. E queste 8 virtù sono la perseveranza, la fiducia, il riscatto, la determinazione, la sicurezza di sé, il coraggio, la volontà e l'impegno. E queste doti sono illustrate attraverso la propria esperienza e la propria carriera, gli allenamenti, le opportunità, le crisi, le conoscenze e l'assistenza che Phelps ha ricevuto durante la sua straordinaria storia. Per esempio l'assistenza ricevuta dal mito di cui Phelps ha fatto impallidire il record, e cioè Mark Spitz. Fu lo stesso Spitz, scrive infatti in questo libro Phelps, a prevedere che secondo lui a Pechino avrei vinto, parla Phelps, 8 medaglie d'oro. Michael entrerà nella storia, dichiarò Spitz. Come si suol dire, darà una lezioncina al resto del mondo e per quelli che lo vedranno dal vivo in TV sarà una cosa eccitante. Il record, aggiunse, sono fatti per essere battuti. Il mio è durato 36 anni e un lungo periodo. E adesso il record a battere è quello di Michael Phelps. E con questo ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussini in redazione, Peter Bescapè in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro chiocciola radio24.it. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona settimana e buone vacanze per chi è già in vacanza.